Letture di Radio 24. Mentre Napoli continua ad essere sommersa dai rifiuti, il Veneto alluvionato riesce a fare la raccolta differenziata anche nella tragedia. Nel Veneto alluvionato si sta facendo la raccolta differenziata dei detriti. Evidentemente per le comunità locali la terribile calamità che si è abbattuta sulla regione non giustifica il cambiamento di abitudini consolidate. Nel 2007, secondo i dati ISPRA contenuti nel rapporto Union Camere 2009, la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani raggiungeva in quella regione il 51,4%, con un picco del 61,9% a Treviso. Mica male. Se non fosse che questo fa aumentare ancora di più la rabbia per quello che sta accadendo altrove. Fra 3 giorni a Napoli non ci saranno più rifiuti, aveva promesso il presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, il 28 ottobre, in piena recrudescenza della crisi della monnezza. Ma a 18 giorni di distanza, il problema della spazzatura in Campania è tutt'altro che risolto. La situazione sembra anzi decisamente fuori controllo, al punto che le migliaia di tonnellate di rifiuti riversate ogni giorno nelle strade di Napoli dovranno essere probabilmente spedite in Spagna, dopo aver già per anni alimentato gli inceneritori tedeschi. Uno smacco senza precedenti per politici nazionali e amministratori locali, incapaci finora di trovare una soluzione credibile alla tragedia. Basta dare anche qui un'occhiata ai dati sulla raccolta differenziata. Nel 2008 in Campania era al 13,5%, con punte, ma in questo caso in basso, del 7,1% nella provincia di Caserta, dove l'emergenza ambientale è drammatica, e del 10,3% a Napoli. Ma anche nelle province più virtuose, come Salerno e Avellino, non si andava oltre il 25%, 10 punti al di sotto della soglia minima fissata dall'Unione Europea. E la Sicilia? Pensate forse che in Sicilia le cose vadano molto meglio? Pure Palermo è stata di nuovo invasa dai rifiuti, e il fetore dei cassonetti bruciati è il segnale inquietante di un'altra situazione davvero a rischio. Sempre nel 2008 la raccolta differenziata in Sicilia era al 6,1%, meno della metà che in Campania. E se a Palermo si attestava al 6,6%, a Messina non andava oltre il 3,6%, a Siracusa oltre il 3,5%, mentre a Caltanissetta non arrivava nemmeno al 3%, il livello più basso d'Italia. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Sergio Rizzo, Rifiuti e raccolta differenziata, lezione veneta anche nella tragedia, dal Corriere della Sera del 17 novembre. Letture di Radio 24. Ospiti principali della seconda puntata di Vieni via con me, Fini e Bersani si sono limitati, secondo Aldo Grasso, a stilare il solito stereotipato elenco di valori di destra e valori di sinistra. Non succede spesso di vedere il presidente della Camera e il segretario del PD nell'insolita veste di portavalori. Eppure, nella vertigine della lista in cui li ha precipitati il programma di Fabio Fazio e Roberto Saviano, i due hanno accettato di andare in TV proprio nel giorno in cui i futuristi finiani hanno preso congedo dal governo. Ma prima dei valori c'è il disprezzo dei valori. Saviano ha messo in scena, con l'aiuto di Antonio Albanese, la leggenda delle 3 organizzazioni criminali, mafia, 'ndrangheta, camorra. Ha parlato dei loro irremovibili codici d'onore. Per descrivere l'oggi è risalito al racconto di Osso, Mastrosso e Carcagnosso, i padri fondatori della mafia, che ordinavano vendette sanguinose salutandosi nel nome dei santi. Saviano è stato molto didascalico, quasi da PowerPoint. Sembrava Alberto Angela che spiega le catacombe. Gli è sfuggita persino l'espressione «il mio pubblico». Ha radiografato la mafia del Nord. L'ha descritta come un centro internazionale del narcotraffico. Ha citato un po' a sproposito Gianfranco Miglio. Ha fatto un appello alla parte sana dei calabresi. Saviano meglio dell'esordio, ma l'inchiesta che Roberto Iacona aveva fatto a settembre sullo stesso argomento era parsa più efficace. Questione di codici, linguistici. Ma il clou della serata sono stati gli elenchi di Pierluigi Bersani e di Gianfranco Fini, definiti rispettivamente valori della sinistra e valori della destra. Senza un briciolo di espressività, Bersani ha fatto la lista dei classici luogo comunismi. Lavoro, giustizia sociale, energia pulita. Un po' più vivace Fini. La destra è aver fiducia negli italiani, essere solidali e generosi. La destra è avere istituzioni politiche autorevoli, rispettate. La cosa che lascia perplessi è che ormai destra e sinistra sono vecchie e agonizzanti categorie storiche, da tempo inutilizzabili come categorie del pensiero. Parlare ancora di valori di destra o di valori di sinistra è una sorta di coazione karmica, o, come direbbe Daria Bignardi, di pesantezza karmica. Ha ancora senso andare avanti con queste etichette? Siamo ancora al chi è lento e chi è rock? Il gusto della lista non deriva solo dal libro di Umberto Eco. Già ai tempi di Anima Mia, Fazio lo ricercava con ardore. Solo che allora si trattava di cianfrusaglie nostalgiche, di oggettistica del cuore, di arredo sentimentale. Qui, signore e signori, si parla di valori, nell'era rischiosa della convergenza. Avete ascoltato la lettura dell'editoriale di Aldo Grasso, Tanti valori, ma due attori un po' improvvisati, dal Corriere della Sera del 16 novembre. Tempo fa Roberto Saviano aveva sollevato un'aspra polemica sulle connivenze tra la camorra e alcuni cantanti neomelodici. Ma per la seconda puntata di Vieni via con me ha invitato Cristiano De André per cantare Don Raffaè, canzone che pare fosse dedicata al boss della camorra, Raffaele Cutolo, e che racconta di come la camorra riesca a dare lavoro colmando le lacune dello Stato. Non saprei dire se avesse ragione Giuseppe Prezzolini definendo la coerenza quale virtù degli imbecilli. Certo è che almeno in politica non risulta essere una qualità troppo frequentata né utile al conseguimento di riscontri elettorali apprezzabili, risultando anzi una pesante pala al piede degli smarcamenti in area di rigore alla ricerca di consenso. Roberto Saviano, che certo imbecille non è, sembra voler assecondare questo costume e, anticipando una sua forse imminente discesa in campo, lo scrittore con la scorta contraddice se stesso e lo fa su un argomento che dalle sue parti non può considerarsi marginale: la musica. Infatti fu proprio Saviano a sollevare non molto tempo fa una polemica anche piuttosto aspra circa certe connivenze tra neomelodici napoletani e camorristi. Allora l'onnipresente narratore ci mise in guardia alzando il suo ipertrofico indice per sottolineare la pericolosità di certe amicizie tra cantautori e delinquenti abituali, sintomo di quel tessuto sociale nel quale la malavita si sostituisce allo Stato. Tutto vero, per carità, anzi verissimo. Dunque stupisce che dopo averci messo in guardia su queste contaminazioni tra musica neomelodica napoletana e camorra, adesso il nostro onnipresente narratore abbia chiamato nella puntata di lunedì scorso del programma Vieni via con me niente meno che Cristiano De André per cantare la celebre Don Raffaè, scritta dal padre di quest'ultimo insieme a Mauro Pagani e Massimo Bubola più di 20 anni fa. A che gioco giochiamo? Quando infatti nel 1990 uscì l'album Le Nuvole, non furono poche le voci che si levarono criticando, non musicalmente si intende, i contenuti del testo che si diceva fosse ispirato alla figura di Raffaele Cutolo e che, tratteggiando un quadro della camorra in qualche misura apologetico, rendeva un servizio a quella criminalità che sosteneva voler criticare. Si trattasse o meno di Raffaele Cutolo, anche su questo punto vi furono accese discussioni, la questione era nota. Secondo il testo della canzone, la camorra dava lavoro là dove lo Stato latitava e dunque in una qualche misura colmava un vuoto di cui non aveva responsabilità. Quando si fa spettacolo non c'è codice morale che tenga e anzi il fascino di certe ambiguità finisce sempre per pagare in termini di successo. Con la televisione, massimamente, poi, non si può andare troppo per il sottile, che l'Auditel è l'unico valore e solo a quello si deve render conto. Il rischio è che quest'ordine di idee venga travasato anche nella politica, che nel nostro paese sta assumendo sempre più i sinistri connotati di un gigantesco show televisivo. E allora, caro Saviano, bisogna decidere. Uno scrittore può dire tutta la verità, un politico può dirne mezza e un uomo di spettacolo è pagato per fingere e inventarsene un'altra. Che vuoi fare da grande? Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Fabio Vitta, Musica e Camorra, Saviano non ce la canta giusta, dal Riformista del 16 novembre.